Siamo in collegamento telefonico con Pasquale Faraco per lo spettacolo Questione di centesimi, sogno di un operaio. Allora, Pasquale, intanto ben ritrovato. Grazie. Per chi ci ascolta, raccontiamo un po' di questa storia e qual è il racconto. Il racconto è un po', lascio un po' da lontano, nel senso che questo spettacolo originariamente era un corto di 15 minuti e che nasceva sostanzialmente poi dai racconti di mio padre, perché mio padre è stato operaio dell'Alfa Romeo, quindi comunque ha vissuto nella catena di montaggio. Poi nel tempo questa, diciamo che ci sono state una serie di riflessioni inevitabili, perché è cambiato un po' tutto, anche proprio l'organizzazione del lavoro. Alla Fiat mondiale è stata introdotta appunto la nuova metrica, che è appunto quella dei centesimi, quindi sminuzzare il tempo sempre di più. Ma è una questione che secondo me è appunto una questione che riguarda tutti, cioè un po' in tutti i lavori ormai, più o meno. Il tempo è sempre, siamo sempre meno padroni del nostro tempo, ecco, questo è un po' quello che più sempre più mi ha condotto poi a formare lo spettacolo. Infatti, via via, poi lo spettacolo, diciamo che dai ricordi del padre, del protagonista, perché comunque c'è una storia, via via, il rapporto che ha col sindacato, che ha con la famiglia, eccetera, con i suoi hobby, con le sue passioni, che sono sempre più, come dire, ridotte per via del tempo, via via, questo, come dire, all'interno della fabbrica prende vita questa sorta di suo sogno. Di sua, come dire, di sua realizzazione o al contrario, di un suo quasi incubo, diciamo, all'interno di questo tempo. Però lui combatte, ecco, lotta, è abbastanza vitale, secondo me, questo personaggio, quindi all'interno di un tempo sempre più coartato, sempre più chiuso. Senti, raccontiamo anche un po' la produzione di Massa a Fuoco, questa esperienza ce la racconti un po'? Allora, Massa a Fuoco nasce a Bologna insieme a Paolo Schena e Dragan Milutinovic, che sono innanzitutto amici, miei cari amici, e praticamente è nata così, un po' per, come sempre succede, per caso, insomma, come dice questo. E poi, soprattutto puntando sulla messa in scena di alcuni miei testi, che hanno sempre un po' questa, come dire, questo retroterra un po', diciamo, sociale, cioè, nel senso che io provo nel mio piccolo, insomma, a mettere in scena quelle che sono un po' le difficoltà, le frustrazioni, ma anche, come dire, anche la voglia di lottare, di reagire delle persone comuni, delle persone che si trovano in difficoltà, oppure degli emarginati, dei diversi, delle persone che si sentono a volte incosciute anche psicologicamente, insomma, delle contraddizioni. Quindi attraverso di loro abbiamo, come dire, creato questo collettivo che non a caso si chiama Massa a Fuoco, come dire, un po' tentativo di gioco di parole, insomma, la massa è un po' messa a fuoco di questi tempi, diciamo, come dire, le persone, ma anche mettere un po' a fuoco la massa, diciamo, cercare di mettere un po' sotto l'obiettivo quelle che sono le persone normali, in condizioni, diciamo, un po' estreme, anche un po' dove emerge la contraddizione del vivere umano, cioè dove di fronte anche a scelte difficili, lavorative o altro, spesso bisogna fare delle scelte difficili, complicate, no? Tradire anche se stessi a volte, insomma, però sempre, come dire, con umorismo. Questo non è, voglio sottolinearlo, perché anche lo spettacolo sarà abbastanza, mi spero che sia abbastanza divertente, insomma, quindi a volte un po' quasi come una comica. Qualcuno ha parlato di un Chaplin postmoderno, sono stati troppo buoni, gentili, però diciamo che l'obiettivo è un po' quello, un po' in tempi moderni, come dire, tempi postmoderni, Senti, questo spettacolo di questione di centesimi. lo sviluppo di un corto, ecco, si tratta di un debutto o già lo avete portato altrove? Allora, diciamo che abbiamo fatto un'anteprima a Bologna, a Camere d'Aria, che mi piace citare perché è un luogo che noi cerchiamo di, come dire, sostenere come luogo teatrale, siamo a Bologna e praticamente stiamo anche conducendo una rassegna, qui ci sono anche diversi con le compagnie anche romane e di altri, come dire, di altre regioni italiane. E a Camere d'Aria quindi abbiamo fatto, come dire, una prima, come una specie di prova, come dire, una sorta di studio. Però questo è un debutto vero e proprio, quello che farò a teatro studio. Quindi Senti Pasquale, avete già fissato altre date anche per altri vostri lavori nel corso di questa stagione? allora, siamo in trattativa, in questi casi si dice sempre così, non è mai semplice, però dovremmo essere forse a marzo in Sardegna, probabilmente ad aprile a Prato, probabilmente, quindi probabile è d'obbligo, però dovrebbe essere queste le nostre prossime, diciamo, tappe. E quindi via via poi ad altre provando ad aggiungere altre date nel corso dell'anno. È uno spettacolo, diciamo, abbastanza nuovo. Ci ho lavorato, cioè, come corto e di qualche anno, però io ci ho lavorato intensamente nell'ultimo anno e quindi, diciamo, ho deciso di concentrare tutta l'energia su questo spettacolo perché, appunto, volevo dargli una forma importante, compiuta, insomma, quindi a questo punto ho concentrato tutte le energie e quindi il tempo poi per fare altro, per promozione, eccetera, non c'è. Diciamo, quando un collettivo piccolo, eccetera, come sanno molte, insomma, che lavorano nel campo teatrale, è sempre complicato. Sì. Senti, in chiusura, Pasquale, ci dai tutti i riferimenti web per quanto riguarda voi e il vostro lavoro? Allora, io sono su Facebook prevalentemente, Pasquale Faraco, e poi c'è Massa a Fuoco, sempre su Facebook. Sono i Benissimo. due, come dire, punti di riferimento. Per il momento noi non abbiamo sito, cioè non abbiamo lavorato, non abbiamo pensato di lavorare sul sito. Allora, Quindi. ricordiamo l'appuntamento con Questione di Centesimi, Sogno di un operaio. Pasquale, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, come direbbe Riccardo Belladonna, il protagonista, guagliù, mi raccomando, venite in spettacolo, eh! Ciao Pasquale.